Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Il capitano ultimo, ve lo ricordate? Ora a destra, i rapaci. Benvenuti a Medius, adesso sentiamo i titoli e poi iniziamo. I rapaci e la legalità. Capiamo cosa c'entra l'antica arte della falconeria con una onlus che è impegnata socialmente per il rispetto della legge. Energia geotermica in arrivo dal mare. Un progetto italiano promette di fornire il 10% del fabbisogno nazionale. Creata una retina artificiale perfettamente funzionante. È la prima al mondo ed è italiana. Si chiama Patricia Churchland ed è una neurofilosofa canadese. La sua tesi è che il filosofo debba conoscere bene la ricerca scientifica e i suoi risultati. Nella periferia di Roma c'era un'area degradata che adesso invece è stata trasformata in un'area nella quale si fanno tante iniziative volte a diffondere la cultura ambientalista. Ed è qui che Barbara Gallavotti ha incontrato il capitano ultimo e i suoi rapaci. Sentiamo. Alle porte di Roma sta sorgendo una cittadella della legalità. Lo spazio è uno di quelli che sono tipici della capitale. Si tratta di una grande area di campagna che è stata di fatto aggirata dall'edificazione. Una specie di spazio vuoto. In origine era una tenuta nobiliare e poi purtroppo è degenerata in una specie di discarica. Oggi però è divenuto un piccolo polmone verde nel cuore della trafficatissima zona della Prenestina. La cittadella, come ogni città che si rispetti, è divisa in quartieri. Uno sarà coordinato dalla Nazionale Cantanti e da Raoul Bova, altri da diversi consorzi sociali e uno da un'associazione senza fini di lucro che si chiama Volontari Capitano Ultimo Onlus. Il capitano ultimo, lo ricorderete, è stato uno dei protagonisti di spicco dell'arresto di Totò Riina. L'associazione raccoglie molti volontari, molti carabinieri, molti ex carabinieri. Quello che hanno fatto è stato allestire una casa famiglia e soprattutto dare inizio a molte attività rivolte ai più piccoli, alcune delle quali, la gran parte delle quali, hanno un risvolto che potremmo definire scientifico e vanno dai seminari di educazione ambientale a dimostrazioni di volo di rapaci. E proprio di rapaci vogliamo parlarvi. Buonasera, capitano ultimo. Buonasera a voi. Allora, la prima domanda è d'obbligo. Cosa c'entrano i rapaci con la legalità? Beh, perché la legalità, oltre al rispetto delle regole, è soprattutto conoscere e rispettare gli esseri più semplici, a iniziare dalle piccole piante agli uccelli e poi agli uomini. I rapaci sono degli esseri particolari, infatti l'approccio con loro è assolutamente speciale. Un falco non lo puoi mai addestrare, come invece avviene per gli altri animali, alternando un premio a una punizione. Lo puoi addestrare soltanto con il premio, solo in positivo, perché alla punizione reagiscono solo in due modi: o attaccano o fuggono via. E un falco non si sottomette mai all'uomo, accetta solo la sua amicizia. Questo, vedi, è già un modello importante, fondamentale, da insegnare a un ragazzo, da proporre ai giovani. E voi quali rapaci avete? Dunque, adesso abbiamo falchi di alto volo come il girfalco, che era praticamente il falco che poteva avere solo l'imperatore nel Medioevo, i falchi pellegrini e i gheppi, e poi abbiamo i falchi di basso volo come le poiane del deserto, gli astori italiani e un astore albidus, che è una specie rarissima che si trova in Siberia, è completamente bianco, bellissimo, e il nibbio reale. Poi, oltre a questi, abbiamo anche dei rapaci notturni, una civetta, un barbagianni e un gufo reale. Lei ha accennato a un falco che poteva possedere solo l'imperatore perché c'era una scala sociale nei falchi? Assolutamente, nel Medioevo era diventato un segno distintivo che distingueva le diverse classi sociali. Infatti il girfalco era il massimo che poteva per legge avere soltanto l'imperatore, al gradino più basso c'era il maschio dell'astore che poteva avere il povero. Come, peraltro attualmente, per esempio nei paesi arabi, è ancora marcata questa caratteristica. Ecco, visto che parliamo di falconeria come arte antica, parliamo anche dell'effetto che ha avuto sull'ambiente fin dall'antichità la falconeria. Sì, certo, ci sono stati dei problemi, perché falconeria era prevalentemente utilizzata per la caccia e quindi al di là ovviamente dei risvolti negativi che poteva esserci una caccia eccessiva, ma anche l'approvvigionamento di questi falchi ha provocato, venivano presi in natura all'epoca, non c'erano allevamenti, e quindi ha danneggiato diverse specie. Ma pensiamo che, insomma, Federico II di Svevia mandava delle spedizioni militari in Groenlandia ogni anno per catturare i girfalchi. E i vostri falchi invece da dove vengono? I vostri rapaci, poi, in realtà, perché non sono tutti falchi, ci ha detto. Certo, no, i nostri rapaci vengono acquistati da allevamenti autorizzati e certificati, perché catturare falchi in natura è un reato grave che deve essere combattuto ed è combattuto da tutti. Voi naturalmente non li usate per fare battute di caccia? No, assolutamente, anche non ha senso, perché oramai è fuori dal mondo, la caccia non, con il falco non avrebbe senso. C'è l'amore per il falco e quindi si va in giro con il falco per amore della natura e del falco. E voi come li usate? Cosa fate vedere ai visitatori? Sì, noi nello spazio che abbiamo intanto facciamo molti incontri con gli studenti delle scuole, soprattutto elementari e medie, e con i ragazzi delle case famiglia. E il sabato e la domenica siamo aperti anche alle famiglie e ai cittadini. Negli incontri facciamo vedere, quindi facendoli proprio osservare direttamente, le diverse caratteristiche antropomorfiche delle specie che abbiamo menzionato prima, e poi facciamo vedere i diversi stili di volo che caratterizzano ogni tipo di rapace. Quindi c'è l'alto volo, il falco pellegrino, e uno vede, no, lo splendore di questi falchi che vanno nel cielo, perché sono creati per il volo e sono gli animali più veloci del mondo, quando in picchiata scendono a 300 km all'ora. E la diversità con l'astore, per esempio, che ha un volo che rade la terra, che sembrano simili e invece sono mondi completamente diversi. Però ecco, uno li può vedere direttamente. Poi organizziamo anche delle passeggiate per le famiglie nello spazio verde. Quindi una famiglia può camminare con il nostro volontario, seguita da un falco. Bene, ricordo per chi è interessato che sulla nostra pagina web www.mebiusonline.eu è disponibile il link alla pagina web dell'associazione, e ringrazio il capitano Ultimo. Buonasera. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti? Perché adesso arriva il quiz e le possibili domande. Un gruppo di ricercatori dell'Università della California sta studiando un sistema nuovo che protegga l'hard disk dei computer portatili in caso di brusche decelerazioni, come avviene per esempio quando un computer cade per terra. Per studiare questa nuova tecnica ci si sta ispirando a, punto di domanda, allora, alla struttura elastica dei noduli della canna di bambù, e ci scriverete bambù, oppure alla conformazione del cranio del picchio, l'uccellino che percuote i tronchi, picchio, ci scriverete, infine alle zampe del gatto, che notoriamente riesce a cadere, il gatto, no, da notevoli altezze, senza farsi male, e ci scriverete ovviamente gatto. Dove? Beh, il sistema è sempre lo stesso, l'SMS 349-238-6666, il libro di questa settimana che si vince è Breve storia di quasi tutto di Bill Bryson, edizioni Tea. In collaborazione con IBS.it. Cosa vuol dire geotermico? Vuol dire estrarre energia dalla Terra. E la Terra non c'è anche sotto il mare, sì? A voglia, direi che i due terzi della Terra più o meno si trova sotto il mare. No, perché si fa sempre questa differenza, la Terra, il mare, ma il mare sotto c'è la Terra. C'è una cosa chiamata fondale oceanico, che è un tipo particolare, come dire, di crosta terrestre, no? E questo è Maurizio Meris, avete già riconosciuto. Beh, poi la Terra ha 6.000 km di raggio, lì parliamo di 5 km, 6 km. Sì, la profondità massima è 11 km. Sì, 15. In realtà un po' un pelo meno. Perché quando andarono giù, il Trieste andò giù, in realtà avevano, come dire, calibrato mare i profondimetri, perché li avevano calibrati in Svizzera in montagna. Allora in realtà c'era qualche 100 metri che ballava. La Svizzera, mi ci crolla pure la Svizzera. Eh già. Allora, geotermico estratto dal mare è anche una cosa italiana. Beh, diciamo che siamo di fronte a un progetto, si chiama Progetto Marsili, prende il nome dal protagonista di tutto questo, di tutta questa vicenda, che è un vulcano sommerso, e poi magari appunto capiamo un po' meglio. Parlammo 2 anni fa. Eh sì, anche perché 2 anni fa si cominciò già a lavorare in qualche modo a questo progetto. Questo progetto in che cosa consiste? Se mai verrà realizzato, speriamo, in 4 centrali geotermiche offshore, quindi molto simili a delle piattaforme petrolifere, per dare un'idea, che andranno a perforare un vulcano sommerso, appunto il Marsile, che si trova a 150 km a nord della Sicilia, in pieno Mar Tirreno, e da lì andranno in cerca di fluidi caldi, di fluidi bollenti, come si fa all'Arderello, come si fa per esempio in Toscana, dove ci sono le prime diciamo centrali storiche geotermiche al mondo, non solo al in mondo, Italia. Iniziò lì, sì. Non solo in Italia, sì. Ebbene, questo sarebbe una prima mondiale, questa di andare a prendere energia geotermica sott'acqua. Sarebbe una prima mondiale, e c'è una piccola società che si chiama Eurobuilding, è una piccola media impresa, diciamo, che si occupa di opere naturalistiche, che ha ricevuto, anche questa è una prima mondiale, il primo permesso di ricerca geotermica sottomarina. Cosa vuol dire? Nel 2006 hanno cominciato a studiare questo vulcano, hanno cercato di imparare il più possibile, adesso hanno capito dove indicativamente bisognerebbe andare a perforare, adesso partono, come dire, delle ricerche proprio mirate, che si concluderanno con un pozzo esplorativo dal quale si tirerà fuori per la prima volta questo fluido, e a quel punto si capirà che temperatura è, quanti sali e veramente che cosa si può fare con questa energia. E le previsioni sono decisamente interessanti. Le previsioni sono estremamente interessanti, perché qui stiamo parlando solo per il vulcano Marsili, poi ci dobbiamo tornare su questo tema, di quasi un gigawatt di potenza, cioè l'equivalente di una centrale nucleare. E equivalente anche da un altro punto di vista, perché come fonte rinnovabile il geotermico è una delle pochissime, direi l'unica assieme alla biomassa, che è anche programmabile, cioè una centrale geotermica funziona 8.000 ore all'anno, un pannello fotovoltaico 1.000. Certo. Vabbè, tu hai intervistato un po' di gente, qualcuno che ci racconta delle cose su questa vicenda decisamente interessante. Ma io ho parlato con Paolo Favali dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lui è un po' il responsabile di questo progetto, e come prima cosa gli ho chiesto proprio di parlarci di questo misterioso vulcano sommerso. Il vulcano Marsili, che è un vulcano non visibile perché sta al centro del Tirreno, una piana abbatiale di 3500 metri, in realtà è un complesso vulcanico tra i più grandi d'Europa, lungo circa 70 chilometri ed è largo 20 chilometri. In pratica è una montagna di più di 3.000 metri che sorge dal fondo del Tirreno e arriva fin quasi alla superficie. Sì, perché il punto più vicino alla superficie è poco meno di 500 metri dalla superficie. Bene, quindi una montagna di 3.000 metri e l'idea di questo progetto è di andare a produrre energia elettrica, per intanto realizzando da qui ai prossimi anni 4 centrali geotermiche da 200 megawatt. Ecco, come procederà l'operazione da qui in avanti? Diciamo che noi facciamo già una serie di esperimenti sul vulcano, abbiamo monitorato il vulcano per oltre un anno mettendo dei sistemi automatici alla base del vulcano, nella parte nord-ovest, dove è la parte più giovane, diciamo, relativamente più giovane. Poi c'è stata una campagna successiva nel 2006, qual è l'intento? È quello di capirne la potenzialità e di valutarne, ovviamente, valutarne gli aspetti riguardanti il rischio, perché poi lei è corso in avanti, nel senso che ha già parlato di possibilità, potenzialità geotermiche, ma in realtà è obbligatorio ed è giusto fare quello che si chiama la valutazione di impatto ambientale, quindi valutare tutti i possibili rischi che questa operazione comporta. Ecco, però mi pare che, come dire, si parta da un buon punto, nel senso che una delle scoperte che avete fatto è la presenza addirittura di dei geyser che sbucano dal fondo dell'oceano, che dimostrerebbero che in qualche modo, come dire, il sistema di fluidi caldi che voi volete intercettare, da cui produrre energia, è già in collegamento col mare. Sì, diciamo in parte sì, diciamo che nell'ultima campagna fatta nel 2006 c'è un pianoro tra le due creste del vulcano, sì. Ed è a circa 700 metri di profondità. Abbiamo messo degli strumenti, tra cui dei sismometri marini e degli idrofoni marini, e abbiamo registrato dei segnali che sono associabili, almeno in letteratura, alla fuoriuscita di gas, di bolle e cose di questo genere. Quindi c'è una certa attività idrotermale, che è un altro sintomo, no, che può far ben sperare. Diciamo, ecco, però dal punto di vista... Uso parole piuttosto caute, è una bella scommessa e quindi è intrigante approfondire questo ecco, discorso. Ma quali sono le cose che per esempio potrebbero andare male? Quali sono le difficoltà in un progetto di questo genere, premesso che è il primo al mondo, quindi inevitabilmente alcune di queste difficoltà magari non sono neanche immaginabili? Ma diciamo che dal punto di vista tecnologico delle perforazioni, tutto può essere mutuato da quello che sono le attività di ricerca energetiche, petrolifere in particolare in mare, quindi dal punto di vista tecnologico non c'è una grande, al di là dei costi ovviamente, certo, non c'è una grande... Non ci sono grandi incognite. Il problema può essere legato ai gradienti geotermici, quindi che tipo di variazioni, che tipo di pressioni posso aspettarmi. Quindi essere pronto a gestire. Ecco, quindi voi vi aspettate poi di scavare dentro al vulcano per quanti metri? Ma diciamo che la parte, diciamo che dal punto di vista magnetico non dà nessun segnale, è qualcosa che è più o meno alla base del vulcano. Quindi... Ecco perché però è così importante, proviamo a spiegare il fatto che non ci siano segnali magnetici. Diciamo sì, è legato allo stato termico del mezzo, per cui se hai materiali caldi o ampie risalite di idrotermali, la magnetizzazione delle rocce decade molto bassa, in maniera quasi totale. Quindi il fatto che manchi un campo magnetico che ci si attende vuol dire che lì c'è qualcosa di molto caldo, perché a una certa temperatura queste rocce e tutta una serie di materiali perdono le proprietà magnetiche. Questo è un prima cosa. L'altro elemento che è sempre frutto della campagna fatta nel 2006, anche dal punto di vista della densità, sì, è abbastanza bassa, quindi anche questo fa pensare a una appunto a un materiale che molto poroso, che per esempio non è completamente solido, cioè è proprio la densità della montagna in quel punto che è bassa, quindi non può essere basalto, questo, non può essere, dall'altra parte deve essere valutato con grande attenzione per valutare ad esempio le potenzialità di rischi di frane, no? Di collasso, parte di collasso, di parte del certo, quindi va valutata con grande attenzione. Io però penso, Maurizio, che su questa cosa del geotermico ci sia una grande opportunità. Senza dubbio, l'Italia è uno dei paesi col sottosuolo più caldo al mondo, noi, l'Islanda, il Giappone. E invece inspiegabilmente anche nei nostri piani nazionali lo sviluppo del geotermico è quasi come se non fosse previsto, gli si dà praticamente l'equivalente di 1-0 da qui al 2020. Al contrario, questo progetto del Marsilio in realtà è uno dei tanti che si potrebbero fare nel Tirreno. Il Tirreno è disseminato di vulcani sommersi, ce ne sono 11. Si calcola che solo dal Tirreno noi potremmo produrre un 7-10% del nostro fabbisogno elettrico nazionale. E poi c'è tutta la terraferma, perché in Toscana, ma anche nella caldera di Latera, quindi nel Lazio, un pezzo della Sicilia e della Sardegna, lì ci sarebbe moltissimo da fare, molta energia da produrre, le tecnologie nuove aumentano ulteriormente il potenziale, eppure non si sta facendo quasi nulla, insomma. Qualcuno ci ascolta? Speriamo. Ciao Maurizio. Ciao Federico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È un orizzonte per il momento lontano, ma ci si sta lavorando, vincere la cecità. Ve ne parla Chiara Albicocco. Ogni tanto qui a Mebius siamo contenti di raccontarvi delle eccellenze 100% italiane, e quella che vi segnaliamo questa sera è una ricerca importante del Politecnico di Milano che ha portato, lo avrete letto anche forse sui maggiori quotidiani italiani, alla realizzazione della prima retina artificiale al mondo perfettamente funzionante. Ecco, il coordinatore dell'impresa è il direttore del Centro di Nanoscienze e Tecnologie dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha sede appunto qui al Politecnico di Milano. Si chiama Guglielmo Lanzani ed è nostro ospite questa sera. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Allora, intanto, professore, complimenti. E ora ci deve un po' spiegare, anche se immagino che sia veramente complicato, perché gli studi che ci sono dietro sono di anni e anni e anni di ricerca. Ma che cosa siete riusciti a mettere appunto nei vostri avanzati laboratori qui a Milano? No, lo faccio volentieri, la ringrazio dei complimenti. Noi ci siamo posti il problema di trovare dei materiali diversi da quelli usati fino adesso per realizzare una retina artificiale. In particolare nella retina ci sono due tipi di neuroni, un tipo che vede la luce, sono i famosi coni e bastoncelli, che però non può dialogare col cervello, e un secondo tipo che dialoga col cervello e riceve il segnale elettrico dai fotorecettori, che sono questi coni che dicevo. Noi abbiamo cercato di trovare dei materiali artificiali che potessero sostituire i fotorecettori, cioè quei particolari neuroni che sono preposti alla rivelazione della luce e alla generazione del segnale elettrico. Questo perché molte patologie, anche gravi, che portano alla cecità completa, sono dovute a malfunzionamenti e poi degenerazione di questi fotorecettori. E abbiamo scelto i materiali polimerici semiconduttori, che sono gli stessi dell'elettronica di plastica e che vengono usati per fare le celle fotovoltaiche di plastico flessibili. Sì, questi perché materiali... anche quelle ricevono la luce, insomma, esattamente questi... come i nostri esattamente. Recettori. Questi materiali hanno la caratteristica di vederli, di assorbire la luce e creare dei segnali elettrici. E quindi noi abbiamo pensato di utilizzarli come fotorecettori nel nostro prototipo di retina. Quindi la nostra è la prima retina artificiale organica, perché in organiche ne esistono già altri modelli, diciamo, tipi. Ecco, sì, per spiegare un attimo, lei dice artificiali significa che sono sintetici, cioè che sono fatti in laboratorio, ma sono biologici, sono di origine organica. Esattamente, insomma. La struttura delle chimica di questi semiconduttori polimerici è a base di carbonio ed è esattamente la stessa che si ritrova nei fotorecettori della retina, per esempio. Quindi sono molecole simili, sono catene di atomi di carbonio che si dice coniugati, perché sono collegati uno all'altro. E la prima cosa che abbiamo fatto è stato vedere se i neuroni, che sono nel nostro caso primari del cervello di un ratto della zona dell'ippocampo, potessero crescere sopra il nostro materiale. Questo non è una cosa scontata, perché ci sono dei problemi di adesione e di compatibilità, e quindi abbiamo depositato e fatto crescere i neuroni sul film polimerico e con successo abbiamo constatato che crescono e sono contenti di stare lì, perché abbiamo misurato la loro attività spontanea, i neuroni mandano dei segnali comuni contro di loro e in effetti lo fanno bene. A questo punto abbiamo studiato la possibilità di rendere i neuroni sensibili alla luce, perché quelli dell'ippocampo del cervello non vedono la luce. Qui è interessante notare che la retina dell'uomo, dei mammiferi, è uno strumento dal nostro punto di vista strano, perché viene chiamata una retina inversa, perché noi abbiamo tutta la circuiteria, come di ricavi, davanti al rivelatore. Quando un qualunque ingegnere farebbe l'opposto, mette prima il rivelatore e dietro i cavi. La telecamera è davanti e i cavi di collegamento sono dietro. Invece nella retina dell'uomo i cavi stanno davanti al rivelatore, quindi la luce passa attraverso tutta l'elettronica, così per semplificare, e poi raggiunge il fotorecettore. A questo punto il segnale ritorna attraverso e le cellule nervose, si ripiega passando attraverso la retina, che quindi ha un buco, una zona oscura che non può vedere la luce, e raggiunge il cervello. Quindi una geometria che l'evoluzione ha scelto strana, di cui non capiamo ancora esattamente il motivo. Comunque sta di fatto che i neuroni, quindi preposti alla comunicazione col cervello, sono totalmente trasparenti alla luce, quindi non la vedono. Nel nostro sistema abbiamo ottenuto invece un dialogo tra i fotorecettori nostri artificiali e i neuroni del cervello. Abbiamo dimostrato che il nostro dispositivo vede effettivamente la luce e la trasforma in un segnale elettrico di stimolazione dei neuroni. Quindi il dispositivo, il prototipo, diciamo, ce l'abbiamo. Sì. Adesso il passo successivo immagino sia innestarlo o comunque testarlo su un essere vivente, che posso immaginare sia un topolino, un ratto, insomma. Esattamente. La nostra ricerca è fatta da fisici che sono del mio gruppo, Maria Rosa Antoniazza e Erika Lanzarini, che sono giovani entrambe, e neuroscienziati guidati da Fabio Benfenati di Genova. Nessuno di noi è un clinico, quindi a questo punto quello che noi faremo è cercare di contattare dei chirurghi oculisti e iniziare a parlare con loro. È difficile, è una ricerca multidisciplinare, certo. Ma va fatto, e cercheremo di capire da loro quali sono le caratteristiche necessarie per un impianto vero e proprio subretinico, cioè che vada a sostituire, a appoggiarsi sulla parte della retina danneggiata dell'occhio. E in parallelo studiamo la biocompatibilità in vivo, perché quello che noi diciamo è un'ipotesi ragionevole ma da testare, e lo faremo con delle cavie di laboratorio in cui inseriamo il nostro dispositivo e andiamo a studiare le eventuali reazioni, infiammazioni che possono essere generate. E qui, professore, mi sembra che poi si apriranno degli scenari piuttosto importanti, soprattutto nella medicina. Chi potrà usufruire di questa vostra tecnologia in un futuro, speriamo, prossimo? Beh, sono, adesso io ripeto, non sono un medico, quindi certo, per scusarmi non ho la terminologia più precisa. Tutte le patologie in cui i fotorecettori sono danneggiati mentre il nervo ottico continua a funzionare, possono avere beneficio da un impianto di questo tipo. Quindi un non vedente con la retina danneggiata, ma ovviamente col nervo ottico funzionante. Sì, sì. Che vuol dire un certo numero di patologie esistenti, retinopatie, quindi casi purtroppo non così rari. Come ci diceva prima, uno dei punti di forza del vostro prototipo è che appunto utilizzi questi materiali biologici, organici, sì, che forse, provo a spararla un po' da ignorante su questo tema, potrebbero essere più compatibili forse con la persona, sì, sì, esatto, a livello meccanico e fisiologico. Esattamente, questi sono materiali soffici, sono possono essere messi su dei substrati completamente flessibili, quindi dei veri e propri fogli di plastica. Potremmo usare per esempio il polietilene e quindi si possono adattare meglio alla forma, e inoltre, come dicevamo, sono fatti degli stessi componenti di cui sono fatti i recettori e poi le cellule, quindi a base di carbonio, idrogeno, quindi in teoria sono molto più biocompatibili e più simili. Inoltre noi ci aspettiamo anche che il segnale che mandano al nervo ottico abbia già la forma più adatta per essere interpretato poi dal cervello. Certo, perché poi, come dicevamo prima, esistono altri ricercatori internazionali, sì, e anche gruppi internazionali che stanno utilizzando questo tipo di tecnologie, però in maniera diversa, ad esempio, sì, esatto, con dei, sì, chip, ci sono, metallici. Sì, sì, sì, esatto, ci sono due tipi di strategie. Uno è un CCD, quindi un vero e proprio CCD simile a quello che si usa nelle telecamere, ma che fotografiche, montato su un occhiale che sta fuori, con un cavo che poi entra e raggiunge il nervo ottico. E l'altro approccio, che ci sono invece le protesi di retina che vengono inserite nell'occhio. In entrambi i casi vengono utilizzati dei chip al silicio, che quindi sono rigidi, e con degli elettrodi metallici che si infilano nel nervo ottico portando il segnale. Nel nostro caso invece non c'è un'intrusione di un elettrodo metallico, perché noi usiamo il trasporto ionico all'interfaccia tra il nostro materiale e le cellule nervose, quindi anche il meccanismo che noi proponiamo è diverso. È come quello fisiologico, insomma, quello che è più simile, in realtà, esatto, simile, sì, è più simile a quello fisiologico, quindi noi speriamo che anche questo possa portare a dei risultati migliori. Adesso le sto per fare una domanda alla cui risposta immagino non sia facile, e immagino che sia difficile prevedere i risultati, ma professore, possiamo fare una previsione di quando potremo vedere la vostra tecnologia applicata alla medicina? Beh, sì, come lei dice, è difficile prevedere, perché ci sono una serie di punti che chiamiamo milestone, checkpoint, punti di verifica che devono essere superati, e non è detto che ci riusciamo. Noi ci stiamo muovendo per avere contatti con, come dicevo, il mondo clinico. Può essere una questione di anni, io penso, per arrivare a un primo prototipo inserito davvero come test in un essere vivente, anche non necessariamente la cavia di laboratorio. Se lei mi chiede una retina finale, io sono ottimista, penso che ci arriveremo a avere una retina che ridà la visione naturale. Penso che 10 anni sia una scala di tempi ragionevole per riuscirci. E non è neanche così tanto, voglio dire, è assolutamente sperabile, è un obiettivo assolutamente ottimistico. Bene, bene, forza Lanzani, in bocca al lupo allora nella sua ricerca. Grazie, grazie a voi. Andate in un motore di ricerca e digitate gorilla e twins. Twins in inglese vuol dire gemelli. E penso che vi riuscirà di trovare qualche foto. La vicenda è appena accaduta. Siamo nel Ruanda, un paese che confina con il Congo, in quella zona dell'Africa nota come i Monti della Luna, oppure il territorio dei vulcani Virunga. Forse qualcuno di voi ricorderà il racconto di Michael Crichton, il titolo del libro era Congo, che si svolgeva in questa zona. Qui vivono i gorilla di montagna.

Se pensiamo al fenomeno opposto, invece che cadere con una certa accelerazione, pensiamo al fatto che l'oggetto può incontrare qualcosa che tende ad arrestarlo, possiamo calcolare sempre con G ma negativa questa decelerazione. Un essere umano che subisca una decelerazione di 80 volte G va incontro a una commozione cerebrale. Per decelerazioni superiori si hanno esiti funesti. Il tragico incidente in cui perse la vita il pilota di Formula 1 Ayrton Senna fu uno di questi casi. La sua auto andò contro un muro di cemento armato a una velocità superiore ai 200 km orari. Va bene, sapete qual è la decelerazione della testa del picchio? 1200 G, è una cifra impressionante. Hanno quindi studiato il suo cranio, scoprendo che è dotato di 4 sistemi di ammortizzatori molto complessi. Uno protegge la lingua, un altro è basato su ossa spugnose, un terzo si basa su un meccanismo collocato nel punto in cui il cranio si collega alla spina dorsale. È tutto in pochi centimetri quadrati. Insomma, la testa del picchio finirà nei computer per proteggere gli hard disk. Patricia Churchill è una filosofa e per parlare di lei ho qui Stefano Moriggi. Buonasera Moriggi. Buonasera. Filosofo della scienza, docente a Bergamo. Lei non è esattamente una filosofa perché si definisce neurofilosofa. Allora i cattivi, quella che ce l'hanno con i filosofi, dicono oh, finalmente c'è questa vera specializzazione, il filosofo che è uno che non sta molto bene di testa. Cosa vuol dire essere neurofilosofi? Beh, è una parte della filosofia che si concentra sulle dinamiche, sullo studio delle dinamiche del cervello, e nella fattispecie di Patricia Churchland l'idea è che noi non possiamo capire quell'entità che sfugge alla comprensione di molti come la mente, se in realtà non indaghiamo o comunque non teniamo conto di come è fatto un cervello. Quindi non è solo una parte della filosofia che si interessa, cioè è partita così ma ha contaminato, si è allargata moltissimo perché diventa una visione un po' complessiva di tutto l'agire e il pensiero filosofico. Esatto, diventa proprio una nuova, che poi in realtà è un'antica idea di concettualizzare la filosofia, cioè un modo di riflettere sulle cose che non può prescindere dalla più attendibile delle descrizioni delle cose stesse, cioè la scienza. Tu l'hai intervistata, una prima domanda che hai fatto? Io l'ho intervistata e la prima domanda era proprio su questo punto, cioè cosa significa fare filosofia oggi? Si può fare filosofia senza tener conto dei risultati scientifici? Si può fare una riflessione filosofica a prescindere dal dibattito scientifico in corso? E lei così mi ha risposto. I think that what is really at the heart of your question is the recognition that many of the traditional questions that philosophers have asked. L'idea è proprio questa che ci restituisce. Alcune grandi domande della filosofia, soprattutto negli ultimi 50 anni, hanno preso nuova forma sulla base delle evidenze che la scienza ci ha messo a disposizione. Quindi non potremmo più occuparcene, non potremmo più rifletterne con costrutto senza tener conto appunto di quello che la scienza ci dice. Vedremo che non sarà sufficiente fermarci a questo, ma è imprescindibile il dialogo tra la scienza la filosofia. È come se dovessimo dire non c'è più filosofia che non è filosofia della scienza. È un'accelerazione di un processo che indubbiamente è in atto da tempo nell'ultimo secolo, cioè questo fatto che la scienza entra pesantemente nella filosofia e anche viceversa. Con le cose che ci dice la Churchland, questa accelerazione diventa ancora più intensa. Diventa ancora più intensa. Teniamo conto che un'accelerazione, come tu dici, scandita anche dal progresso, che è un'accelerazione, ovviamente, certo. Un'accelerazione continua. E quindi se alcune questioni, la Churchland alcune ne elenca, come il problema della coscienza, il problema di come noi prendiamo le nostre decisioni, quella che Nietzsche chiamava la genealogia della morale, una volta potevano essere trattate, non dico trascurando, ma tenendo ai margini le ricerche in corso, beh, adesso fare questo sarebbe perlomeno disonesto dal punto di vista intellettuale. Oh, tutto ciò si riflette anche nell'insegnamento. Infatti, la seconda domanda che ho rivolto a Patricia punta su questo, perché la filosofia è ricerca, ma è anche insegnamento. E uno degli equivoci, purtroppo mi duole dirlo, molto italiano, è che si fa filosofia, in realtà si fa storia della filosofia. Teniamo conto nei licei, ma anche nell'università. E allora io mi chiedevo questo a Patricia, ma può esistere ancora un insegnante di filosofia totalmente a digiuno nella sua affermazione, nella sua formazione da un background scientifico, e lei questo ha detto. I think it is now getting difficult to ask questions in philosophy and to teach classes in philosophy without having some scientific background or at least some background in the psychological. La risposta la si intuisce, la si intuiva già dalla domanda precedente. La risposta è no, non può esserci, non ha senso, non ha proprio diritto di cittadinanza scolastica un insegnante di filosofia che non abbia perlomeno un background scientifico. Non si chiede ovviamente a lui di essere uno scienziato all'avanguardia, nella ricerca, ma non può essere totalmente a digiuno da quelle nozioni che hanno riqualificato e continuano di giorno in giorno a riqualificare le grandi domande della filosofia. E addirittura Patricia aggiungeva nelle sue considerazioni che la richiesta viene dagli stessi studenti, che ti chiedono: ma che differenza c'è nella reazione emotiva tra una persona con problemi patologici e una persona, quindi diciamo così, mentalmente disturbata e una persona cosiddetta sana? Ci sono delle reazioni diverse che attengono e richiedono spiegazioni di natura diversa che solo un ambito scientifico può restituire, aprendo nuovi spazi di riflessione. Perché certo abbiamo assistito, e ne abbiamo parlato spesso in trasmissione, a questo enorme sviluppo delle neuroscienze. Le neuroscienze, con tutte le approssimazioni, le sperimentazioni assolutamente in corso, però certo tendono a dirci come pensiamo, perché pensiamo certe cose. Questo era un tipico compito, no, della filosofia, certo, classica. Adesso le due cose devono totalmente compenetrarsi, e quindi cosa diventa la filosofia andando verso la conclusione? Beh, cosa diventa la filosofia e cosa ne rimane della filosofia? Penso a un problema classico della filosofia, come il libero arbitrio. Ora, senza addentrarci, le neuroscienze hanno totalmente riqualificato il dibattito, per esempio riattualizzando vecchie idee, come quella di Spinoza, per cui il libero arbitrio non c'era. Noi ci comportiamo come se esistesse, in realtà non c'è. Basterebbe vedere alcuni esperimenti, per esempio di Libet, sull'argomento. E alla Churchland, chiedendo dunque cosa rimane della filosofia, nulla, una nota a piè di pagina della scienza, per citare, per parafrasare un vecchio filosofo, beh, lei ha dato una risposta piuttosto interessante a riguardo. Any given neuroscientist is generally involved in experiments. L'idea della Churchland è che il filosofo deve in qualche senso supplire a delle inevitabili lacune dello scienziato, che è chiuso nel suo laboratorio, costretto ovviamente alla sperimentazione, e il filosofo ha il dovere di interessarsi di quello che succede nel laboratorio, di apprendere quello che sta accadendo e di rielaborare concettualmente le conseguenze, le ricadute del lavoro dello scienziato sperimentale e riproporle in ambito sociale. Quasi una missione civile dal punto di vista culturale, che però implica una rielaborazione concettuale e culturale del dato bruto, come si diceva una volta, che viene fuori dal laboratorio. Quindi tutt'altro che una fuoriuscita della filosofia, ma un nuovo impegno sociale della filosofia. Perché qui c'è quel vecchio problema, ci sono non pochi scienziati che tendono a dire, beh, insomma, cosa ce ne facciamo, certo, della filosofia, la filosofia ormai è diventata inutile, questo è un andazzo vecchissimo. E qui invece lei tende a sottolineare, ma non solo lei, so che anche molti altri di voi, certo, avete questa idea, che invece no, questa riconversione della filosofia dà alla filosofia un grande ruolo nel anche spiegare agli scienziati come gli vengono le idee, no? Come gli vengono le idee, come possono essere elaborate, applicate dal punto di vista sociale, come si possono riqualificare dibattiti che occupano le pagine dei giornali, eccetera, eccetera. A volte la diffidenza degli scienziati è fondata, soprattutto quando l'idea della filosofia è quella sorta di atti astrusi per usi astratti, in cui molto spesso è degenerata la storia della filosofia. Ma quando invece la filosofia torna protagonista, come diceva un vecchio maestro che era Ludovico Geymonat, nelle pieghe della scienza, allora l'elaborazione concettuale ritrova uno spazio inedito che nemmeno i più rudi positivisti potrebbero evitare di tenere in considerazione. Vedo un'enfasi in questo finale che lo usiamo appunto come una conclusione. Grazie Maurizio. Grazie a lei. È bello chiudere una trasmissione parlando di filosofia. Ciò abbiamo fatto e questo era Möbius di questa settimana. Ci sentiamo fra 7 giorni e buona serata a tutti e a tutti.